Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi presenta la seconda parte dell'intervista di Morena Moretti con Enrico Balbonesi, una chiacchierata che riguarda il mondo dei manga. L'altra settimana abbiamo parlato dei manga nel loro sviluppo in patria e anche in Italia. Beh, questa volta invece parliamo di vita da manga e quindi ci addentriamo un po' anche nei segreti di questi fumetti giapponesi. Dopo lo stacchetto musicale, la parola a Morena Moretti ed Enrico Balbonesi. Buongiorno Enrico Balbonesi, giornalini, li possiamo chiamare così, questi quando si diffondono tra i ragazzi dell'epoca? Allora, c'è stata una fase di passaggio intermedio, perché l'Italia ha da sempre una grande cultura del fumetto e questo passaggio intermedio è avvenuto anche attraverso le riviste che già erano diffuse. Pensiamo soprattutto alla rivista Eureka, che al tempo era diretta anche da Luciano Secchi, ma poi passò nella direzione anche di Silver, autore Lupo Alberto e di Alfredo Castelli. Questa rivista fu la prima a pubblicare, era già una rivista contenitore di fumetto italiano e americano, ma fu la prima a pubblicare anche un po' per rinnovarsi alcune storie giapponesi. Parliamo di manga molto seri, non un po' molto popolari adesso, però manga anche abbastanza impegnati, con comunque grandi autori come Yoshiro Tatsumi, Shutari Ishinomori, grandi storie appunto come Golgo 13, Black Jack. Questo fu un primo approccio a inizio anni 80 più o meno. In parallelo tutte le serie animate in TV vedevano una grande richiesta da parte del pubblico di materiale che doveva essere in tanti casi anche creato ad hoc, e quindi tante riviste creavano storielle, adattamenti. Pensiamo anche alla prima serie, tra virgolette, live action che abbiamo avuto in Italia, dell'adattamento di Kiss Me Licia, con appunto Cristina D'Avena a interpretare Licia. Poi dopo questa fase c'è stata una fase in cui il pubblico ha iniziato a avere una consapevolezza maggiore anche del prodotto e a chiedere i volumi proprio come erano prodotti in Giappone. Inizialmente le serie venivano proposte specchiate, quindi con le tavole ribaltate e la lettura da sinistra verso destra per migliore approccio del lettore italiano. Successivamente c'è stato un punto di svolta, che è stato a metà anni 90 con la pubblicazione del manga Dragon Ball, che direi sia un nome noto a tutti assolutamente, dove ci fu la richiesta da parte del Giappone a Star Comics, l'editore, di pubblicarlo mantenendolo inalterato, così da non andare a intaccare anche ciò che aveva creato l'autore originale, Akira Toriyama. Star Comics si imbarcò in questa avventura perché voleva dire proporre un prodotto di difficile approccio forse ai lettori, ma in realtà andò benissimo e l'accoglienza da lì in poi fu tale che tutti i manga vennero poi pubblicati appunto con la lettura originale. I manga portano anche in Italia una cultura che ha delle grandi differenze dalla nostra, eppure viene accolta, come anche tu stai raccontando, molto bene. E quindi queste nuove generazioni imparano anche a conoscere quali sono i sentimenti, le abitudini, le modalità, le relazioni che in Giappone ci sono e vengono anche apprezzate. Quanto ha influito questa cultura anche in queste nuove generazioni che hanno letto i manga e soprattutto almeno in che cosa si riconoscevano, si riconoscono ancora oggi nei personaggi dei manga? Allora, qui ci sarebbe da parlare per ore e provo un po' a fare una risposta breve. Un elemento chiave proprio della cultura giapponese alla base di queste storie è stato l'elemento di successo di queste storie anche sul nostro pubblico, perché la cultura giapponese, che ha avuto diverse influenze storiche e anche religiose, aveva un approccio diverso a tanti argomenti, meno edulcorati, però questo approccio risultava molto più diretto, molto più efficace anche sulle giovani generazioni, che erano abituate a cartoni in cui la violenza, il sesso, i sentimenti, tante cose erano tenute quasi nascoste, erano tenute in un mondo degli adulti a loro celato, ecco. Invece il fatto di avere questo approccio molto più diretto, per quanto al tempo le censure comunque non mancavano, è stato un approccio a livello pedagogico proprio molto più efficace, ha fatto molta più presa, perché i giovani sentivano di non avere a che fare con qualcosa che gli stava nascondendo qualcosa. Cioè, se pensiamo anche a cartoni classici, anche solo Tom e Jerry, in cui la violenza è sempre molto leggera, perché Tom magari si prende una martellata sul piede, però nella scena dopo il piede è a posto, sta bene di nuovo. Questo invece non succedeva nei cartoni giapponesi assolutamente. L'influenza poi successivamente è stata che tutti questi prodotti al loro interno avevano tutto quello che era la quotidianità giapponese. Pensiamo anche ad esempio a Doraemon, che è tutto ambientato nella classica periferia del Giappone, con tutti i cibi che solitamente si mangiano in una casa, in una quotidianità in Giappone. E questi hanno da sempre un po' appassionato, ne parlo anche in modo personale, i lettori, gli spettatori, che si sono sempre un po' incuriositi di questa cultura. È una strategia, anche se vogliamo, di soft power del Giappone, che ha lavorato molto su questi aspetti e forse da cui dovremmo anche imparare qualcosa sui tanti prodotti che abbiamo in Italia, molto buoni, ecco. Perché questo gli ha portato poi un grande interesse del pubblico, che voleva scoprire queste cose che aveva visto nei cartoni, nei prodotti, letto nei manga. Adesso sta portando tantissimo turismo al Giappone, c'è un boom enorme verso il Giappone. L'ultima cosa che ti chiedo è il lavoro che fanno i fumettisti giapponesi, come lavorano loro e anche in questo caso quali sono le differenze con i nostri disegnatori. In Giappone il ritmo di lavoro per un autore, diciamo, professionista che pubblica regolarmente è un ritmo di lavoro molto molto serrato. Si parla delle principali riviste che pubblicano settimanalmente capitoli mediamente da 20 pagine, appunto di realizzare 20 pagine di un fumetto ogni settimana, che vuol dire non solo scriverle pensando alla storia e anche alla storia a venire, ma bozzarle, disegnarle in bella, a volte realizzare pagine a colori. Tutto questo in una settimana è un carico di lavoro enorme. A volte si tratta di capitoli mensili, magari da più pagine, da 30-50 pagine, ma comunque il carico di lavoro è enorme. Gli autori spesso fanno aiutare da assistenti che realizzano magari gli sfondi, rifiniscono le immagini, però ciò rimane un carico di lavoro veramente enorme se si guarda la precisione e la cura di tanti disegni. Ecco. Questo ha sollevato anche tanti problemi in Giappone, perché molti autori anche recentemente sono scomparsi prematuramente e questo si può anche collegare a carico di lavoro eccessivo che li ha sfiniti. Spesso si parla di persone che per consegnare in tempo dormono pochissime ore a notte e non escono mai di casa per i mesi anche e quindi è veramente un lavoro pesantissimo. Si parla anche del lavoro solitamente ben retribuito, ma diciamo che il dubbio se il gioco valga la candela rimane rispetto a un mondo di autori in Italia, dove sicuro ci sono sempre le scadenze e diciamo le urgenze editoriali, però probabilmente non c'è una, per fortuna, pressione tale sugli autori di questo tipo, ecco. ただ見つめて微笑んでるあなた。 で知らない痛い気な瞳。 Parliamo invece della favola, da che da sempre accompagna le nostre letture. La favola di regola scritta da un autore e, ma non è un caso, protagonisti animali con tanto di morale. Quindi questo rapporto che ci mandano i nostri avi del rapporto con gli animali, in qualche modo con l'urbanizzazione impazzita forse si sta un po' perdendo. Eppure qualcuno si ricorda di questa osmosi tra noi e ciò che ci sta intorno. Sicuramente lo fa Guia Risari, autrice di questo libro per ragazzi con bellissime immagini e illustrazioni, di Cinzia Ghigliano. Splendide creature. È un volume di recente pubblicazione dell'11 ottobre 2024 e ci racconta come siamo più completi se entriamo in sintonia con gli esseri viventi del pianeta. L'han sentita per noi Simona Sagone e Sara Graci, dopo lo stacchetto musicale, le sue parole. Questa storia in realtà ha tanti anni e appartiene alla parte che ho più mistica animistica, cioè quella parte che guardando un paesaggio si fonde nel paesaggio, stando vicino a un animale diventa quell'animale. Penso che tutti noi abbiamo questa parte in ascolto degli altri, ma molto spesso per ragioni pratiche la mettiamo a tacere, no? ci spaventa, ci turba. In realtà se si fa un calcolo sono più i millenni che gli esseri umani hanno passato a stretto contatto con gli animali che non la situazione in cui viviamo ora da un centinaio d'anni, no? Separati, chiusi, inchiavardati nelle nostre città e distanti non solo tanto dalla campagna ma proprio dalla natura selvaggia. Quindi è nato un po' da questo impulso, da questa voglia di tornare in mezzo a tanti animali e di assistere a quella che si chiama proprio un'ibridazione collettiva, cioè non ci sono più confini per cui un pesce è un pesce, un orso è un orso, ma tutti gli animali si mescolano allegramente, creando proprio una società piena di armonia. Allora, messaggio di armonia della natura, come la recuperiamo dentro di noi, attorno a noi, questa armonia tra le specie e tra gli esseri? Beh, io credo con dei piccoli grandi gesti che sono quelli, per esempio, se siamo, come quasi tutti noi siamo, un po' imprigionati in città, di entrare in contatto con quanti più animali possibili, no? Proprio entrare in un dialogo. Non so, io vivo a Torino e vivo in una zona in cui ci sono dei cani che a furia di essere stati tormentati da me attraversano la strada per salutarmi, coi padroni al seguito che non sempre sono molto contenti. Oppure cercando di introdurre all'interno della propria settimana delle fughe nel bosco, delle fughe in campagna, a volte, ripeto, poi bastano piccole cose, seminare un po' di mangime per le cince allegre, le cince, osservare che anche intorno a noi ci sono rimaste delle specie che vivono abbastanza in armonia, insomma, con il mondo strano che abbiamo creato per loro. Quindi io credo, poi certo, se uno è proprio amante della natura, deve andare in natura, e andare in natura richiede non tanto, perché quasi tutte le città italiane consentono con circa una mezz'ora di ritrovarsi in un luogo privo di cemento e con una serie di specie che vivono ancora libere. Ecco, nel mondo però ci sono tanti modi per unirsi, un po' come la tua rondine padre, la lupa madre, e tutti questi modi di unirsi creano armonie e fanno, come dici tu, il mondo più ricco di colori. Perché invece c'è chi ha paura di certe unioni e giudica innaturali alcune unioni condannandole, mentre altre le promuove come giuste le sole possibili? Ma questo atteggiamento di ripiegamento su di sé è proprio tipico di chi in realtà ha un'identità molto fragile, per cui l'unico modo di mantenerla è strillarla a gran voce, gerarchizzare le specie e affermare la propria superiorità. Perché nel momento in cui invece ci si apre all'altro e ci si ibrida, si riconoscono tutte le sue caratteristiche positive e si aumentano i punti di contatto nei confronti di tutti gli altri. Allora, in realtà c'è anche un esempio molto bello tratto dal mondo equino di ibridazione meravigliosa, che è quella del mulo, nei confronti del quale si parla proprio tecnicamente di lussureggiamento degli ibridi, perché il mulo unisce le caratteristiche migliori dell'asino e del cavallo, quindi riesce a essere molto fermo, molto attento, molto intelligente, non farsi prendere dal panico come l'asino, però è anche nevrile, forte e veloce come il cavallo, magari non quanto il cavallo, ma sicuramente camminate o fate un lavoro molto duro è con il mulo che riuscirete a farlo con successo. Quindi questa è un po' una metafora, no? Il lussureggiamento degli ibridi è quello che fa paura a chi è convinto che la propria identità sia qualcosa di talmente risibile che si deve trasformare in dominio sul mondo. Sotto con il coro, ragazzi! Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello che fa umpa. Io sono Lino, l'ermellino scoiattolo renna, uno dei 100 bis amici umpa. Oh, che bella cosa essere in tanti bis amici. Perché chi trova un bis amico trova un bis tesoro. Sì, sì, infatti, quella volta che io attraversavo il caldo bis deserto del Sahara e mi scoppiò una gomma, acqua. Sapete chi venne il mio bis soccorso, Genoveffa, la giraffa, gazzella, dromedario. Glu glu glu glu glu glu. Un papà. Grazie, Genoveffa, sarai una dei 100 che cantano. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo. Viva, viva, lingue, cuffie, di peruca, di colusti. Domanda inevitabile a questo punto, tu che creatura ti senti? Io mi sento un insieme di creature, non sempre la stessa tutti i giorni, però ad esempio oggi ho citato la cinciarella, mi sento una cinciarella che si è ibridata con un delfino e però ha anche delle zampe d'armadillo, perché qualcosa deve comunque consentirmi, il mio sogno sarebbe che le creature si ibridassero e poi continuassero a potersi muovere nel cerchio infinito delle specie senza fermarsi mai. E come si fa da bambini o bambine a capire che creatura ci si sente di essere e di diventare? Credo esattamente come ho fatto io, cioè come ti senti oggi? Ti senti che vorresti volare, ti senti che vorresti esplorare il sottosuolo, ti senti che vorresti essere veloce o piuttosto ami la lentezza? In realtà noi scegliamo degli animali che potenziano le nostre capacità, esattamente come agli albori della presenza umana sulla Terra facevano gli esseri umani quando veneravano un certo tipo di animale, di cui avrebbero voluto avere la forza, la possanza, l'astuzia, no? Okay. Quindi questi animali sono il potenziamento delle nostre, ahimè, limitate possibilità. E nel nostro passato storico c'è chi ha cercato la purezza della razza nelle persone, scartando tutti coloro che non erano di pura razza ariana. Non amavano certo le mescolanze, anche oggi c'è chi tuona contro il meticciamento. Come si accoglie invece l'arcobaleno di sfumature dentro di noi? Eh beh, si accoglie prima di tutto facendo saltare in aria questo concetto di razza che non esiste. Allora, la razza va intesa solo all'interno della zootecnia, cioè come manipolazione artificiale dei geni. Quindi, in questo senso, nel mondo non esistono delle razze umane, no? Come si è invece millantato. E quindi a partire da questo concetto assurdo, in natura assurdo, si cominciano a conoscere le altre specie o gli altri sottogruppi. Conoscere con uno sguardo aperto, con uno sguardo valutativamente fertile, nel senso che i miei pregiudizi sono i limiti della mia conoscenza e sono i limiti del mio accrescimento. Prima di chiudere ti chiedo che reazione hanno avuto i tuoi primi lettori e lettrici, bambini e bambine, e cosa ti hanno chiesto sfogliando il libro? Allora, in realtà da quando è uscito non ho ancora avuto il modo di incontrarli, però io avevo fatto leggere la storia, come spesso mi capita, e il primo impaginato. E come frequentemente capita coi bambini, non hanno avuto una reazione di stupore, di sorpresa, perché per loro l'ibridazione è più naturale della divisione. Come spesso capita quando si fanno dei libri nei quali c'è un tema scottante in fondo sotto sotto, e quindi magari c'è una coppia dello stesso sesso, c'è qualche cosa, non so, un divorzio, i bambini l'accolgono come sì, fa parte della vita. La storia di Phantom, l'uomo mascherato, ha inizio nell'anno 1530. Un veliero che si apprestava a sbarcare in Africa fu assalito da una nave pirata e naufragò nel Golfo del Bengala. Un uomo chiamato Walker riuscì a scampare al pericolo e a raggiungere a nuoto la spiaggia salvandosi. Trovato un teschio nella spiaggia e riconosciutolo come appartenente al capo dei pirati che avevano distrutto la nave, una notte davanti a un gran fuoco fece una promessa solenne: su questo teschio giuro di dedicare tutta la mia vita alla distruzione di tutte le forme di pirateria e di crudeltà. I miei figli discendenti seguiranno il mio esempio. Fu così che nacque Phantom, l'uomo mascherato. Walker indossò un costume in calzamaglia viola che in Italia è stato cambiato in rosso, con un paio di calzoncini corti a righe trasversali nere e blu e degli stivaletti. Ha gli occhi coperti da una mascherina nera ed è caratterizzato da un cinturone con una fibbia raffigurante il simbolo del teschio, solitamente è armato di un pugnale o di una pistola. Walker assunse il nome di Phantom, che tradotto in italiano significa fantasma, e iniziò quindi a combattere i pirati che affliggevano le coste e le tribù africane con le loro razzie e violenze, dalla caccia ai malfattori che penetrano nelle foreste per cacciare animali e per svaligiare le proprietà degli indigeni, e si oppone alle lotte tra le tribù locali per salvaguardare la pace nel territorio. Phantom, l'uomo mascherato, è agile e forte. Nella lotta possiede numerose tecniche di combattimento. Al dito ha un anello contrassegnato da un teschio, che gli serve per marchiare in modo indelebile i suoi avversari quando vengono colpiti alla mascella da un suo potentissimo pugno. L'uomo mascherato viene aiutato nelle sue avventure da un magnifico cane lupo chiamato Diavolo e da uno splendido cavallo bianco chiamato Eroe. In segno di riconoscenza per il suo operato di giustizia, le tribù dei pigmei della tribù dei Bandar gli hanno costruito un trono e da loro viene chiamato anche con l'appellativo dell'ombra che cammina, in quanto su di lui sono sorte parecchie leggende. Infatti ciò che avvolge nel mistero la figura di questo personaggio è il fatto che, nonostante ha origine nel 1530, le sue avventure sono ambientate nei giorni nostri. Questo ha fatto credere alle tribù degli indigeni che Phantom, l'uomo mascherato, sia in realtà una divinità immortale. Ma questa sua longevità la si spiega con il fatto che il primo Phantom, non più giovane, ha passato il suo costume e la sua eredità al figlio, che è diventato il secondo uomo mascherato, e così è avvenuto per tutte le generazioni seguenti. Vive nella grotta dove ha raccolto i cimeli delle sue imprese e quelle dei 19 uomini mascherati che lo hanno preceduto. L'unico a conoscere il segreto di Phantom è Guran, il capo della tribù dei Bandar. Come in ogni eroe di avventura che si rispetti, esiste una fidanzata. Nel caso dell'uomo mascherato, questa è Diana Palmer, una ricca esploratrice americana della quale Phantom si è innamorato e desidera sposare per farne la madre del suo successore. Phantom molto spesso parte per gli Stati Uniti per andare a trovare Diana. Un fatto curioso è quello che neanche in questa circostanza si toglie il suo costume ed è quindi costretto a nasconderlo con un cappotto, un cappello e una grande sciarpa. Nonostante il loro fidanzamento sia contrastato dalla madre di Diana e dello zio Dave, i due sembrano destinati al matrimonio anche se fino a questo momento continuano a rimanere gli eterni fidanzati tipici del mondo dei fumetti. Quando Diana va a trovare Phantom avventurandosi nella foresta del Bengala, viene sempre coinvolta in una delle mirabolanti avventure dell'uomo mascherato nella quale il più delle volte svolge il ruolo della donna da salvare. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.